Sottotiro. Storie di mafia e antimafia di Roberto Galullo. Benvenuti all'ascolto di una nuova puntata. Allora, cari radioascoltatori, in Calabria c'è un consorzio, una società cooperativa sociale agricola che si chiama Goel Bio. La sua sede legale è a Gioiosa Ionica, quindi siamo in provincia di Reggio Calabria, ed è un consorzio molto molto importante, perché è una insieme di persone che fanno della legalità un principio ed un valore assoluto. Ebbene, il responsabile di Goel Bio, che gestisce anche il centro Emmaus e la cooperativa Arca, è uno svizzero, si chiama Gary Bantel. Direte, che cosa ci fa uno svizzero in Calabria? Cosa ci fa a Roccella Ionica, città segnatamente in cui vive Gary Bantel? Non lo so, sono curioso quanto voi, quindi do il buongiorno a Gary Bantel. Buongiorno. Allora, cosa ci fa uno svizzero a Roccella Ionica? Ma uno svizzero a Roccella Ionica non ci arriva per caso. E come ci è arrivato? Vabbè, da noi altronde ha fatto 20 anni di Calabria, qualche settimana fa abbiamo festeggiato 20 anni di Calabria con mia moglie. Siamo qua sicuramente perché era una decisione di vita, una scelta di vita. Noi tutti e due in quel senso abbiamo deciso nella nostra vita in modo radicale di seguire Gesù come il nostro Signore. In questo ci siamo chiesti dove il posto dove Dio ci vorrebbe mettere, e in quel senso è stato un percorso sicuramente non veloce, ma abbastanza lungo, dove poi abbiamo scelto. Guardi, io direi che voi siete stati illuminati dal Signore, perché se c'è un posto nel mondo, tra i posti del mondo che hanno bisogno di essere illuminati dal nostro Signore Gesù Cristo, è sicuramente la Calabria. Ma voi, quindi, anche sua moglie è svizzera? Mia moglie è svizzera. Anche sua moglie. Voi siete partiti segnatamente da dove? Qual è la città da cui siete partiti? Io sono a Zurigo. Quindi lei da Zurigo e sua moglie da? È di Sciaffusa. Di Sciaffusa siete partiti dalla Svizzera, ricca, ricchissima capitale della finanza, Zurigo, e siete scesi in Calabria. Beh, è una cosa straordinaria questa qui. Quindi sono 20 anni che siete in Calabria. Cioè, io faccio una parentesi, addirittura come primo lavoro era un addetto di banca, addirittura lavoravo in borsa a Zurigo, perciò... Ah, ecco, quindi conosce benissimo. Allora, quindi, ecco, ma una domanda proprio fuori dai denti. Ma lei si è pentito di essere sceso in Calabria o è felice della scelta che ha fatto? Io sono felice in Calabria, noi siamo felici in Calabria. Lo siamo perché sappiamo di essere il posto giusto. Sappiamo lì dove Dio ha voluto che ci siamo, e soprattutto vediamo che quello che facciamo porta anche, diciamo, i suoi frutti, piccoli ma pezzo per... Ecco, quindi possiamo dire che Gary Bantel si sente calabrese. Ma uno le radici sue non li può mai... No, certo. Si sente già l'accento. Ma poi sicuramente io mi trovo bene con la gente di qua, mi trovo bene qua in zona, e in quel senso mi sento un pezzo anche calabrese. Certamente, sì. Allora, ci racconti la sua giornata. Che lavoro fa? Che cosa fa? Io non ho una giornata tipica. Comunque, cioè, dove vivo, lì al centro Emmaus Roccella, noi abbiamo una casa famiglia dove accogliamo bambini che sono in difficoltà. Cioè, questi bambini vivono strettamente insieme con noi. Cioè, mia moglie e io siamo le figure genitoriali di 8 bambini. In questo Ma avete anche figli vostri voi? Noi abbiamo avuto un figlio, l'abbiamo perso, e questo ormai 12 anni fa, ma comunque Filippo, nostro figlio, ha fatto parte di questa casa. Di questa famiglia, certo. E questi bambini che sono da noi, in quel senso, non stanno per un periodo lungo, stanno per un po' di tempo, e poi, sempre in collaborazione con il Tribunale per i Minori, si cercano vie che gli danno un futuro migliore di quello che è stato il loro passato. Beh. Allora, sicuramente questa è la mia sveglia con i bambini, li porto a scuola. E poi ci sono le varie attività, cioè come centro noi, oltre alla casa famiglia, facciamo diverse attività con minori, in generale facciamo animazione con bambini minori, e in più abbiamo un'azienda agricola. Ecco, quanti allora, bambini... Parliamo di quel bio sicuramente... Certo, adesso... Sull'azienda agricola. Adesso ne parliamo. Volevo chiedere, Gary, ma quanti bambini avete in questo momento nella vostra casa famiglia? Cioè noi abbiamo 8 ragazzi, più una ragazza che è diurno, che viene durante il giorno. Ho capito, sono bambini che hanno dei problemi, diciamo così, legati magari ad abbandono, o hanno anche delle famiglie magari difficili alle spalle? Ma ci sono sempre problemi familiari difficili, poi c'è tutta la varietà, cioè, normalmente c'è sempre un pezzo di violenza in mezzo. Certo, certo, certo. Mentre invece la vostra esperienza della cooperativa biologica, quanto la impegna? Ma visto che questo bambino di Goelbio nasce soltanto adesso, è chiaro che è una cosa che mi impegna da un anno, all'inizio di meno, adesso mi impegno anche un 60% della mia giornata. Certo, certo, certo, questo infatti lo capisco, visto che è sul nascere questa iniziativa. Volevo chiedervi, voi avete mai avuto problemi con le cosche di 'ndrangheta che sul territorio lì sono veramente pervasive? Cioè qualcuno vi ha mai rotto le scatole, per dirlo fuori dai denti, oppure c'è ancora una forma di rispetto per chi ha Cristo nel cuore e poi lo dimostra anche con i fatti, che Cristo non è soltanto un'ipotesi ma una realtà di tutti i giorni? Ma vedete, cioè noi in quel senso non abbiamo avuto problemi con la mafia in questi anni che io sono qua. Noi in quel senso crediamo anche di avere un Dio che è potente, che sa proteggere chi deve proteggere, e in questo senso noi ci affidiamo semplicemente a Lui, poi facciamo le cose che sentiamo che dobbiamo fare, le facciamo certo, con attenzione e con coraggio. Senta Gary, ma lei è l'unico straniero o comunque l'unica persona che è venuta da fuori insieme a sua moglie, o ci sono anche degli altri illuminati dal Signore che hanno deciso di scendere in Calabria, terra purtroppo benedetta dal Signore ma maledetta dagli uomini? No, la Calabria non è maledetta dagli uomini, è soltanto un territorio molto molto complicato, ma chi vive in Calabria non dice quello che lei mi sta dicendo. No, lo so, la mia è una provocazione, è un paradosso, io ho sposato una calabrese, quindi si figuri. Ok, no, per dire, la nostra nasce come missione, una missione evangelica, e automaticamente, soprattutto in una prima fase, ci sono stati diversi persone dall'estero che sono stati qua. Ho capito, ho capito. Nel momento siamo molto di meno, c'è un gruppo sempre più, diciamo... Italiano, siamo, certo. Da noi in cooperativa siamo 11 persone. Bene, bene, io ringrazio per questa chiacchierata Gary Bantel, uno svizzero in terra di Calabria, zone sicuramente dove... c'è veramente bisogno della voce e della luce del Signore. Grazie a lui per questa chiacchierata, a Filippo Origin regia e a Laura Faggini redazione. Roberto Calullo vi auguro una buona giornata.